Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salvadanaio. Oggi parliamo di social shopping. Devo subito cominciare la trasmissione con un termine in inglese che so benissimo a qualcuno dà fastidio, però adesso vi tradurremo questo fenomeno per chi non lo capisce, ma sono sicura che molti di voi consumatori più appassionati sanno benissimo ciò di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di quei siti, e li individuiamo ancora meglio citando i nomi, bastino Groupon, Groupalia, Les Bonus e tanti altri, che permettono all'acquirente che vuole stare comodamente seduto davanti al suo personal computer, e ce ne sono sempre di più perché sono in Italia, sono almeno 10 milioni, di trovare offerte a prezzi stracciati, biglietti per viaggi, trattamenti estetici, consegne di prodotti di tutti i tipi, dalla tecnologia all'abbigliamento. Questi siti e le loro offerte non sono però al centro di Salvadanaio questa volta solo per osservare un fenomeno che è sicuramente una tendenza innovativa e che ci proietta nel futuro. Il nostro paese, in quanto ad affari web, è ancora indietro rispetto al resto d'Europa, e non ci concentreremo nemmeno sulla vicenda che ha visto Groupon come osservata speciale della SEC, l'autorità di controllo dei mercati negli Stati Uniti, perché costretta ad una revisione al ribasso del suo bilancio. Questa notizia però, a dire il vero, ha sollecitato la nostra attenzione e si ricollega alla questione che affrontiamo questa mattina. La correzione dei conti di Groupon oltreoceano è stata infatti provocata, fra le altre cose, dalla scoperta che i vertici dell'azienda non avevano tenuto a riserva sufficienti capitali per coprire risarcimenti ai clienti insoddisfatti, scontenti. La questione dell'insoddisfazione della clientela è infatti un tema importante, sempre più di attualità quando ci si riferisce a questo tipo di offerte. Perché? Che cosa succede? Che spesso le consegne vengono effettuate in ritardo, che i servizi sono inadeguati, ci sono delle difficoltà nel trovare il posto nelle date previste dai pacchetti acquistati, e sono problemi appunto che i clienti riscontrano spesso. Perché tutto questo accade? Come si deve comportare il consumatore in questi casi? Di chi è la responsabilità? Che condizioni stabiliscono questi siti con i partner commerciali prescelti? Allora, noi stamattina ne parliamo di tutto questo con Boris Hegeney, CEO di Groupon Italia, Spagna e Portogallo, che ha accettato il nostro invito questa mattina. Mister Hegeney, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno. Mi sente? Eccoci qua, buongiorno e grazie ancora. E poi abbiamo con noi un legale, l'avvocato Marco Gagliardi del Movimento Consumatori. In questo caso questo movimento ha una battaglia aperta con un sito che non è presente questa mattina con noi, per cui ce la faremo raccontare, ovviamente senza accanirci, andremo ai fatti. Avvocato Gagliardi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Avremo naturalmente il punto di vista dell'Associazione dei Consumatori per capire che tipo di battaglie sono in corso con questi servizi, e non vorremmo però neanche, come dire, parlare solamente delle cose che non vanno, perché dati i numeri io credo anche che sia abbastanza evidente il fatto che ci sono molti consumatori che invece fruiscono di queste offerte ogni giorno, andando a caccia appunto di magari servizi che dal punto di vista commerciale, acquistandoli con i canali tradizionali, sarebbero molto costosi, e quindi è evidente che si trovano delle offerte. Però insomma, quali sono le cose che non vanno? Peraltro c'è anche un'altra tendenza che sta prendendo sempre di più campo, e avremo modo di parlarne questa mattina: le offerte commerciali scontatissime si stanno ampliando anche alle prestazioni professionali più disparate, questione che ha sollevato l'attenzione e anche il disappunto, devo dire, di ordini professionali di ogni tipo, i medici in particolar modo, dalla sbiancatura dei denti alle visite ginecologiche che a bassissimo costo. Insomma, voi potete capire che adesso il tema è diventato di grande interesse anche da questo punto di vista. In ogni caso, raccontateci la vostra esperienza. Avete acquistato un pacchetto benessere, una cena al vostro ristorante preferito che magari fino a poco fa pensavate di non potervi permettere, e invece avete trovato casualmente l'offerta su questi siti di social shopping ad un prezzo scontato, ne avete approfittato? Gli esercenti, il partner commerciale di riferimento vi ha fatto qualche problema? Insomma, oppure è andato tutto bene? Raccontateci, insomma, qual è il vostro punto di vista sull'utilizzo dei social shopping. Raccontatecelo all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete anche animare il dibattito che noi ogni giorno organizziamo anche su Facebook. Il nostro indirizzo, l'indirizzo del nostro profilo è salvadanaio-radio24. Prima di tutto un'occhiata molto rapida alla borsa, ne abbiamo già parlato nel giornale radio, una nuova giornata negativa sui listini. Milano sta perdendo l'1,51% e vedo vendite molto forti su tutte le banche. Di nuovo, tutte le popolari questa mattina stanno perdendo tra i 3,5 punti e i 4 punti della Popolare dell'Emilia Romagna, mentre Svetta, Finmeccanica, in rialzo di 5 punti, portando con sé Ansaldo STS più 2,38%, perché Finmeccanica sta ipotizzando, c'è una due diligence, quindi un accordo ormai in procinto di essere raggiunto con i giapponesi di Hitachi per cedere appunto quote molto consistenti di Ansaldo STS e Ansaldo Breda, e quindi i titoli ne sono movimentati appunto di conseguenza. L'euro sul dollaro è 1,3157, lo spread. Da oggi mi impegnerò sempre di più a tradurre nel miglior modo possibile tutta la terminologia inglese che vi infastidisce, appunto il differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e i titoli tedeschi. Questa mattina è a 370 punti base, quindi sta di nuovo viaggiando verso l'alto. Noi però oggi parliamo di un altro argomento e parliamo, e qua non so come dire diversamente perché il fenomeno è conosciuto in questa maniera, social shopping, quindi fare acquisti, fare shopping, fare spese appunto su web. Abbiamo avuto modo di conoscere negli ultimi tempi questi siti che praticano delle offerte a ribasso molto interessanti, ma qualche volta i consumatori sono insoddisfatti. Sentiamo perché. Dai viaggi all'abbigliamento, dal cibo alla tecnologia. Sono tante le offerte allettanti che si possono trovare sui siti di social shopping. Groupon, Groupalia e simili assicurano sconti compresi tra il 50 e il 90% e sono sempre più amati dagli utenti del web. La moda degli affari online è nata negli Stati Uniti solo pochi anni fa, ma ha rapidamente preso piede anche in Italia, diventando un fenomeno estremamente diffuso. Solo nell'ultimo anno, gli italiani che fanno acquisti online sono aumentati di 1,4 milioni. Arrivando complessivamente a superare i 10 milioni di utenti. Il social shopping si basa sul principio dell'acquisto collettivo e sfrutta le potenzialità dei social network. I siti di riferimento raccolgono le offerte del giorno, gli utenti le valutano e poi decidono se procedere con l'acquisto o meno. Se il gruppo d'acquisto che si va formando raggiunge una quota minima di acquirenti, il gioco è fatto. Il servizio è venduto e lo sconto per il cliente è assicurato. Non è però tutto oro quello che luccica, e le occasioni telematiche necessitano sempre di qualche accortezza. Alcuni clienti, infatti, lamentano qualche problema nell'ottenere i servizi acquistati. C'è chi non riesce a trovare posto nelle date prestabilite, chi riceve un servizio poco soddisfacente o un prodotto consegnato in ritardo. Meglio quindi diffidare delle offerte troppo allettanti e poco credibili e leggere sempre con attenzione le condizioni di vendita. Per i consumatori, in questi casi, ci sono diritti, ma anche limiti e doveri, che è bene conoscere prima del click di conferma. 800 24 0024, il numero verde per le vostre testimonianze, le vostre telefonate, i vostri racconti. Vedo già che ne stanno arrivando tanti e in molti ci stanno raccontando sia di esperienze che non si stanno concludendo positivamente, ma anche di, invece, di chi è pienamente soddisfatto appunto delle modalità con cui si interagisce con questi siti. Mr. Hegney, ancora buongiorno. Detto prima CEO e l'amministratore delegato di Groupon Italia, Spagna e Portogallo, a fronte di tanti scontenti e probabilmente anche perché i numeri registrati dal vostro sito, così come dagli altri appunto con i quali condividete le più importanti quote di mercato nel nostro paese, perché evidentemente sono numeri significativi, ci racconta in sostanza quanti consumatori ogni giorno o periodicamente, se avete delle statistiche recenti, interagiscono con voi? A noi riceviamo tutti i giorni richieste di vario tipo dei nostri utenti, sono arrivati migliaia di contatti, della quale però va detto che la stragrande maggioranza, un 80-90%, sono richieste di informazione. Perciò, per dare anche un po' una dimensione a quel che è stato detto e alle lamentele delle quali parliamo, sono l'assoluta minoranza dei contatti che noi riceviamo tutti i giorni. E sì, consideriamo anche la quantità di coupon venduti verso i casi problematici, è veramente una quota molto molto bassa. Quanti coupon vendete al giorno, Mr. Eganei? Esiste una cifra monitorata? È possibile farlo? Mi ha sentito? Ma noi, le campagne che abbiamo live tutti i giorni hanno un contatore dove si può vedere città per città, per dire quanto andiamo. Si parla di migliaia di coupon al giorno, decine di migliaia esattamente. Perciò un successo che oramai si espande a oltre 60 città sul territorio italiano e in forte crescita ovunque. Le comincio intanto a leggere alcuni ascoltatori, poi ne sentiremo qualcuno in diretta. Virgilio da Genova ci scrive: io ho acquistato 5 diversi pacchetti su Groupon, 3 positivi, uno negativo per qualità della struttura, uno difficile da usufruire. Virgilio, ci chiami così ci può raccontare qualcosa di più dettagliato. Un altro ascoltatore ci segnala invece di un acquisto pagato sempre su Groupon il 1 marzo 2012, ad oggi ancora nessuna notizia di arrivo del prodotto. L'altro tema è anche questo, forse il più importante di tutti, a prescindere dall'offerta commerciale, dagli sconti praticati, il tema dell'assistenza post vendita. Forse questo è l'ambito sul quale si possono registrare le maggiori criticità, almeno a giudicare da quello che ci scrivono gli ascoltatori. Ce ne sono tanti altri, adesso tanti altri ne sentiremo. Sono pronti Alberto da Torino ed Emanuele da Verona, ma voglio andare all'avvocato Marco Gagliardi, perché l'associazione appunto Movimento Consumatori ha da qualche giorno invece espresso in maniera molto concreta la sua protesta sull'attività di un altro grande sito che è Groupalia. Noi questa mattina non li abbiamo con noi perché avevamo organizzato la puntata diversamente, però avvocato Gagliardi, ci può raccontare che cosa denunciano gli associati alla vostra organizzazione dei consumatori e il motivo per cui addirittura avete fatto ricorso al tribunale appunto per denunciare le modalità con cui il Groupalia intrattiene la sua relazione con i partner commerciali in particolar modo? Ci spiega meglio? Sì, esatto, ma noi abbiamo ricevuto segnalazioni, diciamo, di 5 tipologie, centinaia di segnalazioni, in particolare appunto overbooking per coupon da spendere in ristoranti o centri dove fanno trattamenti estetici che per il numero di richieste non sono in grado di adempiere le richieste dei consumatori. C'è richieste eccessive rispetto alla disponibilità che può rendere un ristorante, un piccolo ristorante o una pizzeria, oppure difformità di beni o servizi pubblicizzati rispetto a quelli effettivamente resi. Ad esempio viene in mente il caso di un campeggio, di un agriturismo che si è rivelato un campeggio a 2 passi dal mare quando in realtà era a 13 km dal mare. Oppure in caso appunto di servizi non resi o beni consegnati in ritardo, telefonini, oppure l'anno scorso una palestra di Torino che dopo che il Groupalia aveva venduto decine e decine di abbonamenti a prezzi scontatissimi non ha aperto. O come dicevate voi, giustamente, sì, in quel caso erano state coinvolte centinaia di persone che si sono trovate poi un cartello davanti alla porta della palestra. Ma io immagino che come si siano trovati gli acquirenti, appunto i sottoscrittori di questo abbonamento, le porte chiuse della palestra, anche forse per Groupalia che aveva intermediato appunto questa offerta, sia stata una sorpresa o no? Qual è stato il problema? Che poi l'organizzazione non ha voluto risarcire i consumatori? Sì. Poi ci sono stati dei rimborsi tramite coupon, ecco. Dei buoni. Poi anche l'altro punto, tipo di problema, è quello della difficoltà, come dicevate giustamente voi, ad avere la garanzia legale, che non è rispettata la garanzia legale, perché spesso il partner non è identificabile, è successo che il partner non fosse identificabile, per cui non è come quando si compra un telefonino che lo si riporta nel negozio dove lo si è acquistato e poi viene fatto il servizio, reso il servizio post vendita. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo diffidato Groupalia perché abbiamo studiato le condizioni di contratto che si applicano nei confronti dei consumatori e abbiamo trovato delle clausole che escludono radicalmente la responsabilità di Groupalia in caso di inadempimento del partner e che escludono anche la responsabilità di Groupalia nel caso in cui il contenuto della proposta non sia poi corrispondente a quello effettivamente reso dal partner. Benissimo, avvocato Gagliardi, noi ci dobbiamo fermare adesso perché ho già la prima pausa. Questo però è un tema molto interessante, perché fino a che punto dobbiamo capire il social shopping in questione, il network appunto in questione, risponde o meno dell'inadempimento da parte dei partner commerciali, perché io credo che nel momento in cui anche la mole di insoddisfazione cresce, ne va della reputazione dello stesso sito, per cui credo che anche loro siano del tutto interessati a poter risolvere al meglio questa situazione. Un altro tema che dopo la pubblicità affronterò con Mr. Agnew è proprio questo: le modalità con cui avvengono i risarcimenti. Sempre solo il coupon vale? Non è mai possibile avere un risarcimento in contatti? Poi naturalmente sono delle scelte commerciali assolutamente legittime, l'importante è che i consumatori lo sappiano bene sin dall'inizio, se poi l'accordo commerciale non va a buon fine. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Oggi parliamo dell'attività dei siti di social shopping, quei siti che permettono a tutti noi consumatori, stando comodamente seduti davanti al nostro personal computer, di trovare delle offerte per qualunque cosa a prezzi assolutamente stracciati, molto bassi comunque. Si va dai biglietti per viaggi a trattamenti estetici, consegne prodotti di tutti i tipi, la tecnologia, l'abbigliamento e quant'altro. E però qualche volta appunto i consumatori sono insoddisfatti, soprattutto perché a fronte di offerte assolutamente allettanti, qualche volta può capitare che nell'assistenza post vendita non si sia adeguatamente seguiti, qualche volta può capitare che magari se si prenota per esempio una cena per il ristorante che abbiamo sempre sognato ad un prezzo molto basso, magari il ristoratore ci dice sì, va bene, però lei può venire solo nelle giornate in cui dico io, oppure al termine della cena può uscire fuori, non so, magari un extra prezzo di cui non eravamo a conoscenza. Tante piccole cose che hanno fatto anche montare una protesta su Facebook su questo argomento, ma ormai su Facebook fiocca davvero di tutto, per cui noi siamo stupiti. Detto questo, questa mattina con noi l'amministratore delegato di Groupon Italia, Spagna e Portogallo, Boris Agnew, e l'avvocato Marco Gagliardi, legale del Movimento Consumatori. A fronte delle proteste e delle insoddisfazioni, c'è anche chi invece è pienamente soddisfatto, questo l'ho detto anche all'inizio. Un'ascoltatrice, Francesca, ci scrive: ho comperato un coupon su Groupon per scuola guida per mio figlio, 200 euro con 5 ore di guida, esame, teoria e pratica inclusi a Parma, siamo soddisfattissimi. Ma ci mancherebbe anche altro, altrimenti voglio dire chiuderebbero tutti questi siti, invece vanno alla grande con numeri crescenti, però insomma tutto quello che non va può essere sempre aggiustato. Allora, dottor Agnew, io ogni tanto la chiamo mister, ogni tanto dottore, e cerco di capire se identificarla all'inglese oppunto all'italiana, ma questo non importa. All'italiana va benissimo. Ascolti, allora, ha sentito, le questioni sono spesso legate all'assistenza post vendita. Si sottoscrive un pacchetto, l'acquisto di un servizio di ogni tipo, dopodiché quello che succede, voi avete immagino anche un call center a quale rivolgersi. Io stesso ho avuto un problema, poi lo racconto, e con un contatto email ho risolto e adesso ho un coupon da spendere con voi perché non ho potuto fruire di un servizio comprato l'anno scorso. Detto questo, però, i problemi ci sono. Quali sono quelli che vi disturbano di più anche come azienda? Perché immagino che voi non siate contenti di quello che sentite, no? Allora, per noi ogni volta che un cliente ci contatta con un problema e non una domanda, noi abbiamo un debito a fronte a questo cliente, perché abbiamo creato un'aspettativa di usare un servizio che forse non è stata corrisposta in questo modo. E noi, oltre alla risposta al contatto del cliente, che avviene in immediato, se ci chiama direttamente rispondiamo, se mandano un'email il cliente gli rispondiamo in prima battuta, almeno in prima 24 ore, poi dobbiamo anche trovare una soluzione all'eventuale problema. E qui c'è da fare una differenziazione tra il primo contatto e quanto noi riusciamo a risolvere l'eventuale domanda. Per esempio, se un cliente ci contatta e dice ho comprato un coupon e non riesco a prenotare, noi invece semplicemente rimborsare, cioè che non è una vera soluzione, contattiamo l'esercente per vedere dov'è il problema e cerchiamo noi di trovare uno spazio per questo cliente. Questo non è che succede in tempo immediato, ha bisogno di una giornata, certo, forse due di tempo, però cerchiamo di trovare una soluzione, perché vogliamo che i nostri utenti che hanno comprato un coupon e hanno un'aspettativa di usare un certo servizio ad un ottimo prezzo abbiano la possibilità di poter utilizzare pienamente questo coupon. Certo. Questo è l'intento. Cioè, dato che su, Su Groupon i coupon durano 6 mesi, che è probabilmente la validità più ampia di siti che offrono questi coupon in internet, e in questi 6 mesi dovrebbe esserci anche uno spazio per poter usufruire di questo servizio normalmente. Sì, diciamo che il centro benessere al quale mi sono rivolta io lo scorso anno, io non ho potuto fruire di quei servizi per colpa mia, per cui chiaramente l'ho messo in chiaro, non è stato un problema legato alla impossibilità di andare al centro, ho dovuto rinunciare per tutta una serie di circostanze che mi sono capitate. Detto questo, quando io ho chiamato la signora per prenotare i primi servizi, dottor Hegeney, fra un po' le viene l'esaurimento nervoso perché mi ha detto, testuali parole, mai più con Groupon, ma non per colpa, perché praticamente non aveva idea di quello che le sarebbe capitato. L'offerta commerciale che aveva proposto era talmente bassa e talmente conveniente che chiaramente molte signore come me si sono affrettate a fare l'adesione a quell'offerta, solo che chiaramente eravamo in primavera e chi non vuole spendere per un trattamento benessere il suo pacchetto immediatamente. Lei invece pensava di poter conciliare la sua normale attività anche con le clienti nuove trovate su Groupon. Forse anche questi aspetti vanno un attimo chiariti con i partner commerciali, non trova? Assolutamente sì, la ragione per la quale abbiamo anche oltre 200 persone che ogni giorno contattano con le aziende che pubblicano su Groupon per spiegare come funziona una pubblicazione sul nostro sito. Va detto che noi in questi 2 anni nei quali operiamo in Italia abbiamo portato a fare e-commerce tante aziende che prima in internet non vendevano i loro prodotti e che con Groupon hanno appreso a come fare business in internet, come vendere a una clientela particolare, internetara, social media, un prodotto, e anche a confrontarsi con dei clienti che vengono con un'aspettativa un po' differente dal cliente tradizionale offline, perché sono ben informati. Certo. Però sai, le aspettative sono sempre di un certo tipo, le leggo quello che mi scrive un'ascoltatrice: con Groupon ho riscontrato che i servizi, ne cita anche altri di problemi che ha avuto con altri siti e non è solo con voi, che i servizi non corrispondono alla pubblicità fatta per acquisire il cliente, centri benessere che si rivelano streaming site cabine, parrucchieri che ti propinano altri servizi oppure ti trattano da clienti di serie B. Oltretutto, per avere appuntamenti ho avuto grandi problemi, telefoni inesistenti o appuntamenti dopo 2-3 mesi. Hegeney. Allora, io devo non posso rispondere su casi puntuali perché dovrei andare a capire cosa è successo caso per caso, cose che noi facciamo ogni giorno su qualsiasi richiesta che ci viene rivolta. In generale noi abbiamo tutto un gruppo che controlla la qualità dei partner, che fa tutta una serie di verifiche sulla qualità del partner, sulla capacità del partner di far fronte anche a un potenziale di coupon venduti o da vendere in futuro elevato. Noi facciamo dei controlli durante la pubblicazione e anche dopo la pubblicazione, facendo noi delle riservazioni per vedere se il meccanismo funziona, e per esempio su tutte le offerte, su quasi tutte le offerte di ristorazione abbiamo anche un sistema di prenotazione online dove il cliente può comprare il coupon e andare direttamente anche a riservare un tavolo per usare il suo coupon in internet. Cioè stiamo muovendo e lavorando con tanti partner per facilitare sempre di più questo accesso. Certo, voglio anche dire un'altra cosa: molto spesso assistiamo a delle campagne pubblicitarie e di altro tipo, non necessariamente legate alla promozione su siti di social shopping, e la pubblicità molto spesso è molto più generosa nell'immagine appunto di un'azienda di qualunque tipo rispetto alla realtà, quindi questo può anche essere un veicolo pubblicitario per molte aziende che poi necessariamente un po' più ridondante rispetto alla realtà. Avvocato Gagliardi, ci stupisce poi così tanto tutto questo? Io voglio dire, a parte il fatto che magari la pubblicità veicolata sui siti di social shopping possa essere un po' più promettente rispetto alla realtà, non mi stupisce più di tanto, altrimenti non sarebbe pubblicità. Ma l'antitrust infatti negli ultimi anni ha intensificato le attività sul controllo del commercio online. Prima ho sentito parlare di quello che sta facendo Groupon rispetto all'attività di scelta e vigilanza sull'operato dei partner. La correttezza dei partner, sì. Credo che sia il punto più importante, per cui se l'attività di scelta, ma anche poi quella successiva durante l'operato, durante poi l'esecuzione dei contratti, non è diligente, è possibile anche che lo stesso sito Groupon, noi abbiamo visto soprattutto Groupalia, sia responsabile. Per cui non sono per noi legittime delle clausole come anche quella che è utilizzata dalla stessa Groupon. C'è una clausola nel contratto di Groupon dove si legge che Groupon non risponde nei confronti del cliente per inadempimenti del partner nell'ambito dell'erogazione di una prestazione. E questa clausola è analoga a una di quelle che abbiamo contestato a Groupalia, che sarà oggetto dell'azione cautelare che sta procedendo davanti al Tribunale di Milano, volta al... Ho capito, ma questo è proprio l'aspetto che a voi non va giù, dovrebbe essere rivisitata perché in qualche maniera... Poi comunque i siti ne rispondono, perché in ogni caso garantiscono anche la restituzione, anche se passa la restituzione non attraverso il contante ma attraverso un nuovo coupon, comunque in qualche maniera ne rispondono. Egnei, questa questione della clausola di responsabilità rispetto all'inadempimento del partner commerciale non si proprio rivedere? Diciamo così, il coupon è, in questo senso è un vincolo pubblicitario, sarebbe come se si vede uno spot in pubblicità per una macchina da comprare che poi non si può comprare, chiamo la televisione, mi lamento, no, chiamo il concessionario che è l'azienda che eroga il servizio. Se io faccio una pubblicità per un centro estetico se il centro estetico fa una pubblicità su Groupon e io vendo per questo centro estetico un coupon per un trattamento di bellezza, è il centro estetico che eroga il servizio. Se c'è un problema col servizio è col centro estetico che si deve confrontare. Noi andiamo oltre perché vogliamo mediare tra sia gli utenti e le aziende, e in caso di problema cerchiamo di conciliare e di far effettivamente usare ai nostri utenti il servizio così come descritto per renderli soddisfatti. Però io credo che anche legalmente, no, io capisco legalmente il partner che fa una promozione, certo, però anche, voglio dire, il sito di social shopping non ci fa una bella figura se vendo un pacchetto benessere. E qui c'è un'altra ascoltatrice che ci scrive, anzi Anna, che è la stessa che ci scriveva anche prima sul fatto che i servizi non corrispondono alla pubblicità. Lei ci racconta, su un altro sito, non è né il vostro né Groupalia, ha acquistato un pomeriggio di benessere in un grande hotel un'insegna molto nota. Dice però, quando ho chiamato l'hotel non sono riuscita a fare questo trattamento perché la piscina è stata a lungo inagibile e io ancora sono in difficoltà per ottenere il rimborso. Capisco che non è colpa vostra, capisco che non è colpa del sito, però in qualche maniera ne va anche della vostra reputazione, quindi c'è tutto l'interesse, Egne, immagino, a risolvere anche questi problemi. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché ovviamente una persona, noi abbiamo, prima parlavo delle aziende che hanno fatto i primi passi in e-commerce con noi, devo dire che dall'altra parte sono anche tante persone che hanno comprato, utenti che hanno comprato la prima volta su Groupon, e se l'esperienza non è positiva in futuro ci pensano due volte se comprano. Voi ci ripensate anche due volte se un partner commerciale non si comporta bene con un primo pacchetto intermediato attraverso la vostra attività? Voi una seconda volta andate a rinegoziare la vendita di un altro pacchetto, oppure no, grazie, con voi non vogliamo più avere niente a che fare? Noi abbiamo anche dei partner che non pubblichiamo più proprio perché l'esperienza degli utenti o il nostro non è stata positiva. Fortunatamente devo dire che sono pochi, però il feedback dei nostri utenti sì che è importante, e se vediamo che non si tratta di lamentela ogni tanto, una su non so quante centinaia vendute, ma di più lamentele, noi parliamo col partner. Poi ci sono anche tante aziende che sono molto contente di questo feedback degli utenti e che dopo il nostro contatto cambiano atteggiamento perché non forse sapevano come comportarsi. Sfortunatamente ogni tanto c'è sempre qualche pecora nera che effettivamente pensa di fare il furbo, ma l'ho ribadito, i numeri, esatto, l'ho ribadito anche all'inizio. È chiaro che fisiologicamente parlando, date i numeri che muovete, è chiaro che le insoddisfazioni possono essere altrettanto proporzionali, però insomma si può sempre migliorare tutto. Elena da Brescia, rapidamente, poi devo andare in pubblicità così cominciamo un po' anche a sentire gli ascoltatori, se no e sono quelle che ci interessano di più, ci racconti. Buongiorno, io volevo portare la mia testimonianza. Io sono un partner Groupon, nel senso che ho proposto un servizio sulla salute, mi occupo di intolleranze alimentari, ho proposto questo test e io ho avuto tantissimo successo, sono uscita più di 8 mesi, mi hanno ricontattato per riproporlo e ho visto che a parte che ho fidelizzato tantissime persone. Ecco, perché l'altro grande obiettivo è anche quello, no, per i partner commerciali, fidelizzare i clienti, sì, chiaramente. Poi anche mi hanno portato anche amici, parenti, nel senso la soddisfazione è stata evidente e devo dire che anche Groupon, come si è comportato bene, i pagamenti sono sempre stati puntualissimi. Io non posso dire, poi ho usufruito anche ho acquistato dei coupon io personalmente, almeno su Brescia io ho trovato dei servizi ottimi, poi sicuramente delle pecche possono esserci nella massa, però non sarà neanche nella totale soddisfazione un caso isolato. Andremo poi a sentire invece gli insoddisfatti e prima di terminare la trasmissione daremo sia con Hegeney sia con l'avvocato Gagliardi appunto un vademecum per poter operare al meglio su questi siti, traendone naturalmente la massima soddisfazione da parte di tutti. Andiamo ancora ad altre testimonianze dei nostri ascoltatori ascoltatori, ci sono in tantissimi stamattina che ci hanno scritto anche su Facebook. Un ascoltatore, Stefano, ci racconta che ha provato Groupon e lui dice che l'esperienza è stata negativa, ma non per colpa del sito, ma di quei gestori di locali che ti danno un servizio pessimo e scadente solo perché hai un buono e ti trattano come un miserabile. Stefano, può anche essere che accade questo. Andiamo a sentire Alberto da Torino rapidamente. Alberto, buongiorno, benvenuto. Sì, sono Alberto, buongiorno, chiamo da Torino. Io ho comprato un coupon per un parrucchiere qui a Torino dove c'era uno sconto perché pagavi 19 euro per avere una piega alla settimana per 4 mesi. Io ho regalato questo coupon a una persona. Quando è andata questa persona l'hanno insultata dicendo che non si poteva fare perché aveva un sacco di prenotazioni questa persona e che poteva dare un servizio una volta ogni mese e mezzo, e mi sembra molto scorretto. E certo, infatti, cosa ha fatto Alberto? Groupon. Ecco, ha chiesto, vabbè, a parte il nome, diciamo, comunque può capitare con Groupon, così come con gli altri che abbiamo citato. Sì, come ha risolto? Non era Groupon, perché con Groupon mi sono sempre trovato molto bene. Ho dovuto fare spam sulla pagina che hanno loro su Facebook, dopo aver chiesto a tutti gli amici di fare spam, come ho fatto io per 20-30 volte. A quel punto lì mi hanno chiamato, mi hanno restituito i soldi, ma ho dovuto diventare matto. Insomma, è stata una procedura molto lunga, molto complicata. Alberto, ma quindi ha avuto una restituzione di Let Bonus, sì, un altro sito, ha avuto una restituzione in contanti o un altro coupon, Alberto? Ho avuto la restituzione in contanti subito, perché gli ho detto che altrimenti avrei fatto denuncia ai carabinieri per truffa, perché non mi si tratta così, insomma. Io ho pagato per un servizio, se tu non eroghi il servizio mi dai i soldi indietro. Grazie Alberto. Emanuele da Verona. Sì, ciao Deborah, complimenti per la trasmissione intanto. Grazie. Io volevo raccontare la mia storia. Ho comprato un casco in novembre per la modica cifra di 90 euro. Il fatto è che non mi è mai arrivato. Quando vedevo che mancava un paio di giorni alla scadenza, perché ti mandano il coupon con scritto ordinare presso il fornitore entro una settimana, io provavo a utilizzare questo coupon e mi diceva che il coupon non era utilizzabile. Quindi ho chiamato il call center di Groupon e gli ho spiegato questa cosa. Loro mi hanno detto: no, vai tranquillo, non c'è problema, vedrai che riuscirai a ordinarlo. Te la faccio breve, l'ho aspettato 4 mesi finché non mi hanno non ho minacciato di andare anch'io, come l'ascoltatore di prima, a denunciarli. Però questi non mi hanno ridato indietro i soldi, ma mi hanno dato dei soldi, diciamo, spendibili di nuovo su Groupon, che purtroppo, devo dire la verità, mi ha dato fastidio anche questa cosa qua, perché mi hanno detto non è possibile riavere soldi in contanti. Ecco, Emanuele, allora la questione è che può piacere o non piacere. Se le condizioni sono chiare fin dall'inizio, noi possiamo decidere anche che cosa fare. Se di fronte alla prospettiva di un servizio non soddisfacente sappiamo che saremo risarciti e rimborsati in quel modo, l'importante è che lo si sappia dall'inizio. Detto questo, però, la questione è invece perché sto casco non arriva. Eganei, adesso è chiaro che lei non può rispondere per questo fornitore presso il quale il casco è stato prenotato, però il disappunto di Emanuele ha tutta una ragione d'essere. Che ne pensa? Assolutamente sì, e abbiamo ricevuto segnalazioni per questa tipologia di offerte, appunto, è che non arrivano tutte in una giornata, ma ne ricevi una, ne ricevi due, ne ricevi tre. A un certo punto, oltre a contattare ogni volta il fornitore di questo prodotto, si vede che non è un'incidenza singola, ma un problema un po' più grande. Qui noi, per questo, tardiamo anche ogni tanto forse in rispondere, andiamo a cerchiamo di trovare una soluzione con questi partner. Qui si tratta comunque di un caso di oramai quasi 6 mesi fa, e in questi 6 mesi anche noi abbiamo imparato anche su la serietà di alcuni partner che fanno queste offerte, e la selezione dei partner, come dicevamo prima, è cambiata parecchio, proprio anche in base al feedback dei nostri utenti, come questo di Emanuele. Infatti, e quindi mi raccomando, Egane, ci prometta che lavorerete molto su questa direzione, perché è quella della quale questa mattina ci stiamo infastidendo un po' di più. C'è poi un'ascoltatrice invece che ci scrive, adesso la ritrovo, Diana, che ci ha scritto che ha acquistato una pulizia e sbiancatura dei denti, mi sono trovata benissimo. Avvocato Gagliardi, non riusciamo ad aprire la parentesi relativa alle prestazioni sanitarie, sa che facciamo? Ne rifacciamo un'altra di trasmissione più avanti. chiamando magari anche i diretti interessati, gli ordini professionali che non amano moltissimo che queste prestazioni vengano pubblicizzate in questo modo, e forse per certi versi li possiamo anche capire. Vorrei sentire rapidamente Antonio da Roma, perché ha un'ultima cosa da raccontarci su Grupalia. Antonio, rapidissimo, sì, perché buongiorno. Poi buongiorno, sì. Sì, sarò brevissimo. Buongiorno, grazie della vada, vada. Allora, praticamente è successa questa, è una cosa recente. Io ho acquistato un buono tramite Grupalia, questo buono dava scadenza 9 di aprile. Io connettermi soltanto il 9 di aprile per poter prendere questo coupon, c'era scritto scaduto. Mando un'email, mi risponde sempre il solito Marco, in maniera dopo 3 volte che la manda per le lunghe, la terza volta mi dice che loro considerano la scadenza delle lunghe 00 del mattino del 9. Cioè, a mezzanotte, lo so, mezzanotte. No, alla mezzanotte dell'8. Io gli ho risposto, guardi, il caso qua si dice 24 dello 08 aprile. Mai ho sentito una scadenza alle 00 del mattino del 9. Antonio, grazie. Avvocato Gagliardi, pane per i suoi denti, anche questa ci mancava. Eh sì, sono tutti casi che abbiamo già sentito. Comunque, 2 frecce da parte nostra, una nei confronti degli operatori nel social shopping e una nei confronti dei consumatori. I primi dovranno svolgere un'attività di monitoraggio attentissimo sull'operato dei partner e controllarli dall'inizio alla fine. In caso di inadempimento dovranno rispondere, risarcire e rimborsare in tempi rapidi. Dovranno poi eliminare le clausole vessatorie di esclusione di responsabilità. Per i consumatori consigliamo di stare attenti, perché lo shopping si può trasformare anche in uno shopping compulsivo. Non bisogna aderire sempre a offerte troppo convenienti, non bisogna esagerare con gli acquisti. Esatto. Magari prima di andare a comprare un coupon di un ristorante nella stessa città in cui vivono, possono andare a visitare Benissimo. Il ristorante per vedere poi. Esatto. Avvocato, grazie, devo andare alle pillole con l'INPS e le pensioni anticipate. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Quali regole valgono per la pensione anticipata per i lavori usuranti? La riforma Monti-Fornero mantiene in vita un canale particolare di pensionamento per i lavori usuranti, sia pure a condizioni più rigorose di prima. Il diritto ad andare in pensione anticipata per i lavoratori che svolgono attività usuranti è infatti riconosciuto nel 2012, secondo la nuova disciplina, ai lavoratori che raggiungono le quote, somma di età e di contribuzione, previste dalla vecchia legge per le pensioni di anzianità. La somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva deve dare il risultato di 96, con almeno 60 anni di età e 36 anni di contributi. I requisiti cambiano ulteriormente nel 2013. La quota prevista sale a 97, l'età anagrafica minima a 61 anni. Il tema vi è piaciuto tantissimo, vi prometto che ci ritornerò molto presto. Boris Hegene, grazie per essere stato con noi, buona giornata. A presto. Grazie a voi. Ci sente. Grazie anche all'avvocato Marco Gagliardi. Salva Danaio torna lunedì, con voi ci sarà Roberta Pellegatta, noi ci risentiamo martedì. Buon weekend a tutti.